Puoi ascoltare Radio Vaticana Italia sulla frequenza nazionale del DAB, la radio digitale. Per informazioni www.digitalradio.it. Roma, la Chiesa nella città. Bentornati, qui Fabrizio Mastrofini e un cordiale saluto a tutti voi ascoltatrici e ascoltatori di oggi. Vi ricordo la pagina Facebook della trasmissione Roma, la Chiesa nella città. Siamo in compagnia del professor Emanuele Castelli, abbiamo di nuovo una puntata molto importante. Il professor Emanuele Castelli è docente a Basilea, è storico della Chiesa antica e filologo classico, ricercatore all'Università di Basilea nell'ambito del progetto europeo per la digitalizzazione e lo studio dei manoscritti greci del Nuovo Testamento, dai primi papiri del III secolo sino a Erasmo e al Rinascimento. L'altra settimana abbiamo cominciato con il professor Castelli un percorso sulle origini cristiane a Roma, cercando di capire cosa sappiamo della primitiva comunità e della presenza degli apostoli Pietro e Paolo. Siamo passati poi ad approfondire alcuni aspetti legati alle persecuzioni, correndo, per così dire, fino al III e IV secolo. Ma oggi ritorniamo a Roma, in quegli anni 60 dell'era cristiana, con la morte dell'apostolo Pietro e dell'apostolo Paolo. Quello che noi abbiamo recepito dalla tradizione è che sostanzialmente, diciamo, negli ultimi anni del regno di Nerone, quindi fino al 68 d.C., insomma, dal 64 al 68, grosso modo, si dovrebbe collocare la scomparsa di tutti e due gli apostoli. La tradizione, diciamo, più nota ovviamente è quella che colloca la morte degli apostoli nel 64, per la precisione, cioè ad opera di Nerone, e a causa del ben noto incendio che era scoppiato nell'urbe. Noi su questo evento abbiamo una testimonianza centrale dello storico romano Tacito, che dice che Nerone, abolendo rumori, cioè, diciamo, per allontanare i sospetti che si erano addensati su di lui come responsabile dell'incendio a Roma, fece addossare la colpa a un gruppo settario in qualche modo legato, insomma, con il giudaismo e con la Palestina, i cristiani. E un altro aspetto interessante è che Tacito ci dice che coloro che, appunto, insomma, furono condannati a morte vennero afflitti, condannati a varie pene, messi a rogo e vestiti come bestie. Proprio questa notizia del fatto che alcuni erano stati dati a rogo, ma erano stati anche, diciamo, vestiti in forme caricaturali, è stata congiunta recentemente da uno degli storici romani attualmente più famosi, Timothy Barnes, con la fine del Vangelo di Giovanni, perché nella fine del Vangelo è noto che Gesù chiede a Pietro: Pietro, tu mi ami? E a un certo punto Gesù gli dice: adesso tu ti cingi la veste e vai dove vuoi, ma quando sarai anziano non sarà così, altri, diciamo, ti cingerà e ti porterà dove tu non vuoi. Ecco, il fatto che altri, insomma, si incaricherà di vestire Pietro e portarlo dove lui non vuole, ecco, è stato questo passaggio, ovviamente molto molto, diciamo così, ambiguo, poco definito, molto poco chiaro, solo gli interessati lo avranno capito. Ecco, questo passaggio è stato sposato da Timothy Barnes con il passo di Tacito, in cui si dice che a Roma i cristiani erano stati afflitti a queste pene ricercate, in particolare al fatto di essere vestiti con pelli di bestie e così dati al fuoco. È evidente da quello che ho detto che, al di là di tutte le suggestioni che può dare l'ipotesi di Barnes, sicurezze assolute non ce ne sono. Un'altra tradizione che è anche molto conosciuta, anche per ragioni di carattere artistico, pittorico, presenta invece la morte di Pietro come crocifisso a testa in giù. È una tradizione che anch'essa molto antica, perché risale a una notizia di origine, quindi di uno dei massimi padri della Chiesa. Agli inizi del vissuto nella prima metà del terzo secolo. Ecco, quindi diciamo noi abbiamo queste testimonianze così poco approfondite, o quantomeno è difficile poterle con sicurezza riscontrare, proprio perché non abbiamo altri elementi di giudizio. Senta, le voglio fare una domanda sui luoghi piuttosto, perché sembra abbastanza chiaro che il luogo di sepoltura di San Pietro sia sotto l'attuale Basilica Vaticana, secondo i ritrovamenti del Novecento, ma è altrettanto certo che il luogo di San Paolo sia le Tre Fontane? Disponiamo di una notizia di fondamentale importanza di un presbitero della Chiesa di Roma, vissuto tra la fine del secondo e gli inizi del terzo secolo, Gaio. Questo presbitero scriveva in greco e dà notizia delle memorie degli apostoli in Vaticano e sulla Via Ostiense. Ecco, questo è tutto quello che noi sappiamo, diciamo. Di sicuro sulla memoria dell'Apostolo Paolo sulla Via Ostiense e credo che sia importante perché lei anche stava facendo riferimento, appena fatto riferimento ai ritrovamenti archeologici del Novecento, di spendere una parola sulla differenza che c'è tra tomba e memoria e su che cosa davvero è stato trovato nel Novecento sul Colle Vaticano. Sì, mi sembra molto importante questa differenza. Facciamo questa chiarificazione terminologica, professor Castelli. Ecco, noi per tomba intendiamo effettivamente il luogo dove vengono deposte le spoglie di una determinata persona. Per memoria, addirittura Gaio, questo presbitero della Chiesa romana vissuto tra secondo e terzo secolo, parla di trofeo dei due apostoli. Intendiamo un'area che viene scelta, probabilmente per ragioni legate appunto al luogo del martirio, scelta per celebrare il ricordo della morte e del martirio di una determinata persona. Ora, quando noi ci occupiamo di Pietro, di che cosa stiamo esattamente parlando? Di tomba o di memoria? È possibile a un certo punto anche tutte e due, eh? È possibile anche tutte e due. Ecco, noi per chiarire questo aspetto che è importantissimo, dovremmo, diciamo, un po' calarci in quello che è successo sul Colle Vaticano, nella Basilica di San Pietro. Dal 1939 in poi, cioè quando Pio XII, con un atto indubbiamente coraggioso e anche diciamo con forte coinvolgimento, decide di dare attuazione al desiderio del suo predecessore di essere sepolto il più vicino possibile al luogo appunto dove si riteneva che fosse stata deposta. Posto dove ci fosse la tomba dell'Apostolo, cioè praticamente sotto l'altare del Bernini. Pio XII autorizza una prima esplorazione e questo ci fu un abbassamento di livello ovviamente delle grotte vaticane e questo portò immediatamente i primi esploratori a contatto con il sepolcreto pagano di età romana e con tutta una serie di tombe. I lavori sono proseguiti diciamo così, dal 39-40 fino sostanzialmente al 49-50. Ci sono state varie fasi e vari sviluppi che forse diciamo, sarebbe anche abbastanza lungo ripercorrere nel particolare, ma la sostanza è questa. Si è trovato un'area definita campo P, cioè proprio il campo dove si presume che ci fosse appunto la memoria petrina, un'area che archeologicamente non può essere datata a prima del 160, sostanzialmente dal 160 al 180 o comunque la seconda metà del secondo secolo. Quest'area, diciamo, di memoria è stata ritenuta, identificata con quella notizia di cui dicevo del presbitero Gaio, che parla di un trofeo, di un luogo di celebrazione della memoria del martirio dell'apostolo Pietro. Ovviamente in quegli anni ci fu anche una spasmodica attesa per ragioni comprensibili, proprio per come è fatta l'area che è emersa. Ecco, questa è un'area che dal punto di vista funerario, come necropoli, fu utilizzata grosso modo dal 120-130 d.C. E come dicevo, questa edicola funeraria, questo trofeo di celebrazione dell'apostolo, non può essere certamente stato realizzato prima del 160. Che cosa sia avvenuto prima, che cosa ci fosse prima, e con noi questo non lo sappiamo. Ecco, scusi, la interrompo, professor Castelli, ma potrebbe aiutarci in questo, secondo lei, una analogia, diciamo, con quello che accade nella storia? Noi possiamo pensare e sapere che i cristiani che venivano condannati erano considerati dei fuorilegge e Certo. quindi facilmente venivano buttati in quelle che noi oggi chiamiamo fosse comuni. Sì, ma infatti. Cioè, quindi diciamo, ecco, non c'era quel tipo di attenzione, no? Che può esserci poi per persone considerate non fuorilegge o per quando si sta attenti e rispettosi di quelli che oggi noi consideriamo diritti umani, che hanno a che fare anche con la pietà, che si deve verso i defunti. Cioè, no, questa è infatti una considerazione giustissima che volevo appunto proporle adesso. Cioè, noi quello che sappiamo è che questo martirio, queste diciamo, forme di persecuzione nei riguardi dei cristiani sono avvenuti più o meno diciamo, nel circo di Caligola, che era sostanzialmente a fianco all'attuale basilica. Abbiamo detto che dal 120 d.C. quell'area è area funeraria, ma prima di quella data era ager publicus, cioè terreno di fatto di tutti e di nessuno, non ci potevi edificare. Però è ovvio che in un momento di emergenza qualcuno sicuramente poteva andare e seppellire, interrare il corpo di un'altra persona. Naturalmente questo apre tutta una discussione che pure è stata fatta da tipo di Barsen, lo studioso che citavo, e da altri, su come è morto Pietro e dunque che spoglie sono state raccolte di Pietro. Però, come vedete, entriamo davvero, diciamo, nel campo dell'impossibile da decifrare. La cosa certa è questa, che lì c'era una memoria. Poi, se ci fosse stato prima un loculo, diciamo una zona in cui hanno, in un momento di emergenza, deposto le spoglie, ciò che era rimasto dell'apostolo, questo naturalmente è possibile. Però, ripeto, evidenze archeologiche dell'esistenza di una tomba prima, alla luce di quello che ho detto, non ci sono. Anche perché teniamo conto di un fatto che una tomba può essere tanto un luogo in cui uno sul soprraterra seppellisce una persona, quanto una realtà monumentalizzata. Per esempio, veniva messa una stele, veniva realizzata un'ara o si faceva come si è fatto dopo un tempietto. Quindi, proprio perché se ci fu davvero lì, nelle immediate vicinanze del circo di Caligola, la sepoltura fu fatta per ragioni di emergenza. È chiaro che nessuno ha potuto in quel momento realizzare una monumentalizzazione della tomba di Pietro. Sta di fatto, però, che nel giro grosso modo di 3 generazioni, lì insiste una forte presenza cristiana, come è stato ricavato dai graffiti che si trovano su una parete, diciamo, di questo tempietto e che sono grosso modo collocabili tra la fine del secondo secolo e comunque il terzo secolo. Ecco, la interrompo, professore, perché corriamo il rischio di dimenticarci di San Paolo, però, e delle Tre Fontane. Sì, questa è una tradizione, però diciamo così, evidenze archeologiche come quelle che abbiamo avuto nel caso di Pietro non sono state scoperte. La cosa eccezionale, davvero eccezionale, è stata che con gli scavi che ha autorizzato Pio XII, effettivamente è stata data matematica certezza a alla notizia di Gaio, di questo personaggio, come dicevo, vissuto verso la fine del secondo secolo, però un'area corrispondente a quella di Pietro in Vaticano è descritta da Gaio, noi quella ancora non l'abbiamo trovata. Solo spendere una parola su un altro punto che forse i nostri ascoltatori già conoscono, comunque insomma è spesso richiamato, sulla presenza di un graffito in quest'area di Pietro in Vaticano, che generalmente viene indicato come Pet Eni, e che una grande epigrafista del secolo scorso, Margherita Guarducci, ha sciolto e interpretato nel senso di Petrosseni, che vorrebbe dire Pietro è qui. Si è molto discusso su questo e l'interpretazione più nota, quantomeno al grande pubblico, è appunto quello che dicevo, cioè che Peteni dovrebbe essere sciolto in Petrosseni, Pietro è qui. Ma teniamo presente che questo è un graffito. E a quello che noi sappiamo delle iscrizioni cristiane dell'epoca, ecco, questa forma Eni sta qui, è una forma rarissima che sicuramente non compare mai nelle iscrizioni cristiane di lì. E invece compare un'altra espressione, En Irene, cioè in pace. Questo frammento noi non ci dobbiamo dimenticare, questo pezzo di intonaco noi non ci dobbiamo appunto dimenticare del dato fondamentale che è frammentario ed è direi molto molto probabile se non sicuro che originariamente chi ha scritto lì volesse scrivere Petros en Irene, cioè Pietro in pace, perché nelle iscrizioni cristiane di questo periodo è la formula corrente di saluto, di congedo, di augurio. Molto importante questo che lei dice, e tra l'altro è l'obiettivo di questa intervista, di questa serie di interviste con lei, cioè porre sul tappeto una serie di questioni, una serie di problematiche che tuttavia nulla devono togliere e nulla possono togliere alla fede, evidentemente. Sì, d'altra parte, ecco, c'è comunque tutto un discorso positivo da fare, nel senso che tutta una serie di valutazioni compiute, storiche, archeologiche e osservate sia da studiosi, oggi diciamo così è venuta meno la contrapposizione tra studiosi di impostazione cattolica o protestante o non credenti, però diciamo così già a suo tempo storici di indubbia obiettività, insomma, di onestà intellettuale, anche non cattolici, nessuno ha mai messo in discussione la presenza di Pietro a Roma o la morte, ma per evidenti ragioni, perché noi nelle testimonianze, quella notizia che io ho citato di Gaio, ce la fornisce Eusebio di Cesarea, un grande intellettuale cristiano vissuto tra il III e il IV secolo, ce la fornisce accanto alle testimonianze di altre chiese, questa volta orientali, microasiatiche dell'Asia Minore, che invece rivendicavano la presenza, la tomba o la memoria di altri apostoli. Cioè, un dato sicuro da cui noi dobbiamo partire è che la tradizione antica non permette oggettive variazioni sul punto di dove Pietro è morto. Noi non abbiamo nessun tipo di suggestione diversa. Altro è andare a recuperare come si presentava la tomba di Pietro all'indomani della sua morte, ammesso e non concesso, come dicevo, che ci sia stata mai una monumentalizzazione all'indomani della morte dell'Apostolo, sul che io sono, come tantissimi altri, profondamente scettico per ovvie ragioni, perché in un momento di emergenza non sappiamo effettivamente, diciamo, il corpo dell'apostolo dove sia stato deposto e come, ma in un momento di emergenza ben difficilmente si sarà provveduto a fare una monumentalizzazione e comunque sull'area vaticana il sepolcreto, cioè un'area di destinazione sicuramente funeraria, non può essere anticipata al 120 d.C. Aggiungerei anche un altro elemento, se permette, professor Castelli, Sì. andando avanti nei secoli, che noi non sappiamo neanche come fosse la primitiva Basilica Costantiniana, per il semplice motivo che quando è stata costruita l'attuale Basilica Vaticana è stato distrutto tutto quello che c'era. Quindi, diciamo, ma all'epoca non c'era una sensibilità storica o archeologica come possiamo averla noi oggi per la ricostruzione dei luoghi. Quindi ci troviamo di fronte veramente a delle difficoltà oggettive. Beh, un po' lo sappiamo come fosse, diciamo così, la Basilica. Sappiamo senz'altro che insisteva, ancor prima di quella attuale, insisteva anch'essa sul trofeo di Caio, su questa edicola funeraria legata alla memoria dell'Apostolo. C'è invece da dire che quando è stata fatta l'attuale Basilica di San Pietro, anche per il fatto che chi ci ha lavorato si è sentito davvero, diciamo, nello spirito di fare cose grandiose, non è stato troppo concedere attenzione a quello che si è andato trovando durante le fondazioni della Basilica attuale. Anche loro nel 1600 sono arrivati a contatto con l'edicola di Gaio, con il trofeo di Gaio. Semplicemente, ecco, se uno legge le cronache dell'epoca è avvenuto di tutto, nel senso che per una serie di superstizioni e di vicende che avvennero in quei giorni, si ebbe l'impressione che andare a toccare quel trofeo e quello che c'era lì vicino avrebbe portato a qualcosa di male. Questo è documentato dalle cronache degli inizi del 1600. Pio XII, giustamente, ha lasciato immediatamente cadere il ricordo di questi episodi che li ha generati dalla fantasia, ovviamente, dall'irrazionale, e ha fatto fare un'indagine archeologica. Però, ripeto, all'inizio del 1600 chi ci ha lavorato è arrivato immediatamente a contatto come noi. Poi anche loro, poi è vero che, diciamo, nel fare i pilastri hanno praticamente conficcato i basamenti attorno a delle aree funerarie che erano nelle immediate vicinanze del trofeo di Gaio, e quindi, appunto, come lei diceva, non è che hanno avuto molti riguardi per quello che c'era prima. Però, appunto, insomma, all'epoca si è preferito non indagare oltre. Esatto, sensibilità diverse, e questo è parte dei problemi che oggi dobbiamo districare. Io tornerei alla chiesa al momento della morte dei due apostoli, cioè questa chiesa del 64 dopo Cristo. Cosa sappiamo della organizzazione della Chiesa? E poi ancora le farei una seconda domanda: cosa sappiamo anche delle prime figure dopo gli apostoli? I primi papi dopo Pietro, Lino ad esempio, sono figure leggendarie oppure trovano dei fondamenti storici? Lo storico Eusebio di Cesarea, ancora una volta, ma altre fonti, ci dà la lista dei successori, insomma, di Pietro, comunque degli apostoli a Roma: Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alessandro, Sisto, Telesforo e Gino Pio, fino ad addentrarsi nella seconda metà del secondo secolo. Ecco, la prima cosa da chiarire è effettivamente che ruolo queste figure avessero. Anzitutto, erano papi? Beh, certamente no, certamente non come lo intendiamo noi, sia perché la parola papa all'epoca, anzi, a quello che noi conosciamo della documentazione del III secolo, era estesa ai vescovi tranquillamente, ma comunque non c'era la visione della Chiesa e della sua struttura come quella attuale. Per ciò che concerne in particolare la Chiesa di Roma, il documento principe che ci permette di vedere un po' di come stessero le cose è la lettera attribuita a Clemente, che la tradizione vorrebbe come uno dei successori di Pietro, un documento scritto in greco alla comunità di Corinto intorno, grosso modo, al 90, alla fine del primo secolo. Noi che impressione ricaviamo dalla lettura di questa lettera, che non parla direttamente della comunità romana, ma, come dicevo, si rivolge a quella di Corinto? L'impressione è che comunque fosse una comunità a Roma tendenzialmente molto giudaizzante, o comunque molto legata a tradizioni di carattere giudaico, e uno se ne accorge di quanto è forte questo retaggio se fa un confronto con le lettere scritte pochi anni dopo da Ignazio di Antiochia. In quelle di Clemente le citazioni vetero-testamentarie sono costanti, in quelle di Ignazio praticamente non ce ne sono. E quindi, almeno alla luce di quello che vediamo di questa lettera, del rappresentante, di chi l'ha concepita, c'è un forte legame con la tradizione giudaica. E per il resto le indicazioni che sembra si possano ricavare sull'organizzazione a Roma sono davvero, diciamo, di difficile decifrazione. L'impressione che qui, come altrove in altre comunità, la comunità, non dimentichiamo che Roma è una città di eccezionali proporzioni, probabilmente i cristiani saranno stati raggruppati chi qui, chi lì, non sappiamo neanche come si davvero, diciamo, potessero coordinarsi questi gruppi. Ebbene, diciamo, da quello che si ricava dalla lettera, l'impressione che ci fosse un gruppo di presbiteri più o meno responsabili di questi gruppi. Se, diciamo così, all'interno di questi presbiteri poi una figura davvero dominasse con funzioni particolari, per il momento questo non sembra potersi ricavare. E non sembra potersi ricavare neanche da uno scritto di alcuni decenni più tardi, il cosiddetto Pastore di Erma, scritto grosso modo tra il 130 e il 150 a Roma, da Erma, che la tradizione ci dice fu fratello del vescovo Pio, cioè proprio fu fratello della figura centrale della comunità. Quando scrive Erma, ancora si ha l'impressione che ancora la comunità sia dominata da un gruppo di presbiteri. Probabilmente intorno al 150 si realizza invece una evoluzione di carattere gerarchico che si era compiuta in Oriente, dicevo prima nel caso di Ignazio di Antiochia, già molti decenni prima, cioè nel passaggio da una organizzazione di carattere presbiteriale a una fondata su una figura che ha davvero la leadership della comunità, il vescovo, al quale è sottomesso anche il collegio dei presbiteri. Quindi, diciamo così, se andiamo da Clemente ad Erma, dal 90 al 130, 140, l'impressione ancora di una comunità governata da un collegio di presbiteri è possibile, perché nelle dinamiche sociali spesso avviene che una figura, diciamo così, eserciti una certa leadership all'interno di un gruppo. Ma questa è una cosa, dire poi che questa leadership fosse davvero strutturata nelle forme a noi più familiari, cioè di uno a capo che si chiama il vescovo, poi il collegio dei presbiteri e l'ordine dei diaconi, questo non risulta affatto. Sembra invece che le cose siano andate diversamente, cioè che a Roma il passaggio a una forma di organizzazione fondata sulla figura del vescovo si sia realizzato gradualmente, grosso modo, a partire dalla metà del secondo secolo. È tutto per oggi. Alla prossima. Grazie. Ricordo la pagina Facebook Roma, la Chiesa nella città.